Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Ciao Giuliana. Ciao Ilona. E ciao a tutti, è ritornato Bosco. Ebbene sì, in questo martedì 30 gennaio è finito questo gennaio che a voi tutti sembra essere durato tantissimo, a me invece sembra essere durato pochissimo perché ho un esame e quindi avrei preferito fosse di più giorni, per dire. Ma per me invece gennaio è il mese più durevole di tutto l'anno, non finisce mai. Ma quanti giorni ha gennaio? È assurdo. L'altro giorno ho visto una vignetta che diceva buon 74esimo giorno di gennaio, tipo così. Però vi dico, a me invece questo periodo dell'anno inizia a durare pochissimo, chiudo gli occhi e siamo già giugno, e poi arriva settembre, a settembre inizia a fermarsi il tempo e c'è quel momento di nulla esistenziale fino a dicembre che dura tantissimo e poi dopo così via, così discorrendo. Ma non è questo l'argomento di oggi comunque. Esatto, anche perché non siamo Giuliacci ma siamo un programma di informazione musicale, anche se a voi pare qualcos'altro, tipo non so, del cabaret o della satira. Cara ascoltatrice, cari ascoltatori, siamo qui oggi, qui riuniti, per parlare di una cosa molto fica e importante. Ormai diciamo che il mondo della cinematografia, possiamo definirlo tale, si è rivoluzionato con l'arrivo delle serie TV. Ecco, noi oltre ad essere delle grandissime fan delle serie TV e a perdere interminabili ore delle nostre giornate dietro allo schermo di un PC, imbambolate davanti a una trama e a un'evoluzione che ci cattura, siamo anche delle grandissime conoscitrici di musica proprio grazie a queste serie TV. È vero. È verissimo, e le serie TV ci hanno tra l'altro ispirate appunto per questa puntata, perché vogliamo parlare di musica che è stata conosciuta grazie alle serie TV, musica che ha fatto le serie TV, perché ci sono serie TV che veramente si sono incentrate tantissimo sull'elemento musicale, ma soprattutto anche di una personalità che tutti sottovalutano, ma che fortunatamente per la prima volta è riuscita ad ottenere una riconoscenza. Esattamente, stiamo parlando del supervisore musicale, ovviamente lo dico in italiano perché come ben sapete non sono così tanto esterofila, ma no scherzo, ovviamente la mia pronuncia in inglese è pessima. Agli Emmy del 2017, gli Emmy Awards, che appunto premiano i più prestigiosi e meritevoli personalità musicali del mondo della musica sostanzialmente, è stato istituito questo nuovo premio che allora, ve lo dico un po' così, Emmy Award Outstanding Music Supervision, ora non chiedetemi nulla, però sostanzialmente va a premiare coloro che supervisionano appunto, possiamo dire, lo storytelling musicale della serie TV e quindi danno grande importanza al contributo musicale inserito all'interno a quello visivo, visuale, insomma filmico possiamo dire. Ed è molto fico perché sostanzialmente ci si chiede, ma siamo dovuti arrivare fino al 2017 a capire che il ruolo del supervisore musicale è un ruolo centrale nello snodo della trama e del racconto? Sì, purtroppo sì, siamo arrivati tardi ma siamo arrivati. Esatto, e vogliamo insomma partire con questa fantastica e spumeggiante puntata di Bosco facendovi ascoltare un brano selezionato dalla vincitrice degli Emmy dell'anno scorso, che è Amarsi un po' di Battisti, che è inserito all'interno di Master of None. Non ve l'aspettaste mai, anche perché Battisti, oltre ad essere un artista molto valido, è uno dei cantautori che personalmente mi hanno accompagnato per la mia adolescenza e mi accompagnano tuttora, è però semi sconosciuto. Amarsi un po' viene inserito dalla signora Drutin, e tra l'altro che fa delle peripezie e porta il vaso in salvo, perché sostanzialmente la difficoltà del lavoro del supervisore musicale è come si dice, quella di reperire i brani, di andare ad analizzare e comprendere da dove vengono, quindi di chi sono i diritti, di contattare le case discografiche o chi appunto ne detiene i diritti e di chiedere la concessione. La signora Drutin appunto fa un lavoro eroico nel caso di Amarsi un po', tant'è che le è stata data la concessione esattamente 3 giorni prima del montaggio. Aveva già scelto un altro pezzo perché appunto reputava di scarsa reperibilità Battisti. Ora ve la facciamo ascoltare e poi vi raccontiamo come ha fatto. Buon ascolto. Mm. perso un po'. È come bere. Più facile è respirare. Basta guardarci e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai. Impaurire no, no, amarsi un po'. Aiuta, sai, a non morire senza nascondersi, manifestandosi. Si può solitudine, però, però volersi bene no, partecipare è difficile, quasi come volare. Quanti ostacoli e sofferenze, poi sconforti e lacrime per diventare noi, veramente noi, uniti. Vicini, ma irraggiungibili. Questo era Lucio Battisti con Amarsi un po', tratto da Master of None. Esattamente, e a sua volta un singolo, tra l'altro, uscito nel 77, contenuto all'interno dell'album di Lucio, che si intitola Io, Tu, Noi, Tutti. È un brano per l'appunto del 77, e come ha fatto la signorina Drutin a reperirlo? Ci siamo lasciati un po' così, con questa suspense che fa sempre bene e rende questo programma anche un po' più serio di quello che in realtà è. Allora, sostanzialmente cosa fa? È disperata la signora Drutin, non sa cosa fare, contatta la Universal America, la sede centrale. e le dicono: non ti preoccupare, ti passiamo alla sede italiana della Universal. Così accade, ma la sede italiana le dice: guarda che i diritti di questo brano appartengono alla vedova di Battisti. E allora cosa fa? Semplicemente va in panico: come posso chiedere la concessione di questo brano? E niente, sostanzialmente la vedova rilascia il brano, lei lo può utilizzare per Master of None, ci riesce con solo 2 giorni di anticipo alla data prevista del montaggio, quindi sostanzialmente è stato un miracolo. Mm-hmm. E la canzone è contenuta all'interno della seconda stagione, nel 9° episodio. Io non seguo Master of None, ma era molto interessante l'utilizzo da parte di, appunto, penso che sia prodotta dalla HBO questa serie. Mm-hmm. Che è, diciamo, uno dei colossi di produzione di tutte le serie più importanti che poi arrivano qua in Italia, vengono appunto comprati i diritti da altri canali, altre emittenti. Mm-hmm. E è molto fico perché adoro, non so, le canzoni italiane anche un po' datate del nostro canto leggero della musica italiana all'interno invece di contesti invece moderni e contemporanei. Molto fico, molto bello, molto wow. No, poi, cioè, devo dire che comunque quasi tutte le serie della HBO hanno una grande impostazione musicale, ma poi ovviamente durante tutto il resto della puntata noi vedremo chi ha dato vita a cosa, come alcuni brani che sono diventati famosissimi, alcuni brani che già conoscevamo che hanno dato vita a serie TV stesse, perché per esempio più avanti sentiremo un brano di Bowie che ha dato vita non una ma a ben 2 serie TV che sono appunto ispirate a 2 brani di Bowie e tantissime altre cose. Ma il brano che sta per arrivare in realtà è un brano molto particolare che probabilmente non so se i nostri ascoltatori conoscono, sicuramente conoscono la serie TV. Esattamente, stiamo parlando di una serie TV arcinota che ha accompagnato i genitori, i nostri genitori, se anche voi siete piccoline e picciò come noi e i papaveri invece sono tanto alti, che è Twin Peaks. Twin Peaks va in onda, insomma, negli anni 80. La mia mamma mi racconta che aveva un'ansia terribile quando cercavano di scovare appunto chi avesse ucciso Laura Palmer. E niente, la mia mamma me lo faceva vedere sostanzialmente quando ero piccina e poi è diventato un po' una serie TV culto, soprattutto per i radical chic bolognesi e di tutto il mondo. È una serie meravigliosa e David Lynch ha deciso di lanciare la terza stagione girata in contemporanea, quindi rivoluzionare totalmente quello che era il setting anni 80, anche un po' datato e age. Ricordiamo che Lynch, oltre ad essere appunto l'ideatore e il regista di questa serie TV, ha fatto un sacco di film bellissimi. Ricordo che soprattutto è un compositore. Lynch è un compositore, tra l'altro. Esattamente. E niente, e ha lanciato questi due episodi in anteprima nel 2016. C'è stato un hype potentissimo, posso dire, tutti eravamo in attesa di questa nuova stagione di Twin Peaks. Dibattiti da bara si sono consumati nei poli di ritrovo più importanti della Bologna giovanile. Io sarò sincera, posso dire una cosa? Allora, io appassionata di Twin Peaks, piaceva tantissimo la serie comunque d'inizio anni 90, che a me le prime 2 stagioni sono piaciute veramente tanto. Devo essere sincera, questa terza stagione io ho fatto molta fatica a guardarla. Io l'ho amata alla follia, mi rassicuravano i rimandi alle prime 2 stagioni. Sì, è totalmente discratico da quello che ha prodotto Lynch, cioè dal Twin Peaks del passato, però a me è piaciuta molto, l'ho consumata e io non sono una grandissima, insomma, non sono un ottimo pubblico per le serie TV, non mi piace in generale proprio stare attaccata al PC e non mi piace in generale stare attaccata a un contenuto visivo, infatti una volta non mi piacevano i film, poi tutto è cambiato, sono cresciuta e sono maturata. Fatto sta che alla fine questa terza stagione di Twin Peaks è intervallata da dei momenti musicali all'interno dello storico locale, che è appunto il, non mi viene in mente il nome, Ilona, come si chiama? Oddio, non mi sta venendo il nome. Vabbè, comunque, ma lanciamo il brano, intanto ce lo cerchiamo sul Google e vi diamo un'informazione precisa. Comunque, il prossimo brano è appunto Shadow di Chromatics. Come veniamo cullate in questo martedì pomeriggio. Bello, eh? Tra l'altro lei, loro, perché sono i Chromatics, sono una scoperta davvero interessante. Vi invito ad ascoltare tutta la loro discografia. Tra l'altro fanno delle cover pazzesche, cioè bravissimi. Intendono proprio le cover come piacciono a me, ovvero con tantissima identità all'interno. Comunque David Lynch concludeva questi episodi con delle esibizioni all'interno del Bang Bang Bar, che ho scoperto che è la stessa cosa di Road House. Sì, infatti. Sì, va bene così, e loro sono capitati in questo secondo episodio e mi hanno catturata. Mentre un'altra band mi ha catturata, ma ero ancora piccina picciola, i papaveri per me erano alti alti, appunto, era un adolescente che dopo pranzo si attaccava al televisore per seguire le tormentate vicende, appunto, di Ryan Atwood e Marissa Cooper. Stiamo parlando di Ossi. Secondo me è una... Vabbè, allora, diciamo una cosa. Abbiamo messo entrambe un guilty pleasure, che poi non è un guilty pleasure, capito? Perché ci sono serie TV che ti segnano per la vita. Ossi, nel tuo caso, è una di queste. Comunque, anche io dopo una chicca per il guilty pleasure, comunque. Esattamente. Niente, ero una bambinella, ero giovane, sognavo l'amore guardando soprattutto Sette Summer. Io ho sempre voluto un uomo come Seth Cohen. Poi mi sono accorta che fosse un po' un casino osservare i principi della dieta kosher, dato che è ebreo. Ma comunque, sostanzialmente fichissimo, io ero piccina e c'era questa sigla incalzante che mi catturava. Mi ricordo che quando mi hanno regalato il mio primo PC e ho potuto usarlo in completa autonomia, la prima cosa che ho fatto è stata scaricare questo bellissimo brano dei Phantom Planet, che è California, che ha fatto da sigla per tutte le stagioni di OC. Quindi sicuramente lo conoscete, ma è davvero molto bello farvelo ascoltare per una marcord nostalgica di epoche ormai troppo lontane. Beh, direi che è stata comunque una presentazione piena di vita e di amore per questa serie TV che ti ha segnata. Comunque, Ossi, cioè, ha segnato un po' tutti. A me no, cioè, a me non piaceva. C'era Marissa che mi stava antipaticissima. Cioè, io non ce la facevo a guardarlo, capito? Boh, ovviamente era tutto un ambiente un po' spuzzettoso, borghese, con la puzza sotto il naso, però era bello essere catapultati in Orange County, no? In California, surfisti, capelli dorati di salsedine, belle donne, belli uomini, bella musica. C'era una serie TV, che mi ricordo un sacco, tipo era un college per surfisti, che io mi ricordo che la guardavo ogni cavolo di estate, facevano un'edizione nuova, tra l'altro, come se appunto arrivassero studenti nuovi, che io me la guardavo ogni estate, che era sempre su, cioè ne facevano un sacco di serie TV così, poi... Andava di moda il sogno americano, il sogno californiano, non lo so. Andava di moda far vedere dei ragazzi con i pantaloncini completamente a petto nudo che andavano con la loro bellissima tavola da surf e ragazzine, questo sai da cosa deriva? Da Baywatch. Palesemente, palesemente, cioè l'ideale del tipo da spiaggia è stato portato sugli schermi da Baywatch. Cioè ragazzi, come facciamo a non ricordarci di Pamela Anderson? Pamela Anderson, io non capivo nemmeno niente, cioè gli snodi, lo davano a mezzogiorno Baywatch, le repliche, io me lo ricordo, l'unica cosa che mi è rimasta in mente è il costumino rosso che non potrò mai permettere. Ma tu lo sai che io guardavo Baywatch da piccola e praticamente mi ero talmente fissata che volevo il salvagente di Baywatch, io ricordo che i miei me lo comprarono, io avevo il salvagente, quello arancione a forma di supposta gigante con le due maniglie. Ce l'avevo, bellissimo, bellissimo. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo ad ascoltarci questo benedettissimo brano, appunto California, guarda caso, dei Phantom Planet. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustles grab your to shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now.